Flora, sentiamo Flora, buongiorno. Buongiorno, niente, io ho sentito prima che dicevate, no, che diciamo, i genitori stranieri costringono i bambini di studiare, che è l'unico modo di No, inserirsi nel... costringono, diciamo, hanno Cioè... quel rigore che non ricordavamo dei nostri genitori, sta parlando un vecchietto di oltre 50 anni. Però io dico, cioè, è giusto così, perché ognuno deve dare il suo al massimo di potenziale che ha su sta cosa, non mi Non è pare... molto chiaro, però, guardi, nella media delle famiglie italiane non è che sia un concetto così diffuso, così applicato, il rigore nello studio da parte dei Ma figli. perché il soggetto, per esempio, qui in Italia, e quel Lei soggetto, Flora è anche se non ha straniera? studiato, Lei Flora non ha... è straniera, lei Flora? Sì, io sono straniera, sono dall'Albania. Albanese, sì, da quanti anni Anche sta qua se in non ha... Italia? Sono dal 97 che Ah sono sì, qui. Anche magnifico. se non ha studiato, il soggetto qui è capace di andare avanti nella società. Quindi per me è una cosa bruttissima, cioè non so, una cosa che proprio non... Per me non è valido, diciamo, Beh, è perché quel soggetto... chiaro quando venne portato un mega fanta calciatore al Festival di Sanremo che dice che ha letto un libro in vita sua e è fanta miliardario, giusto perché fa il calciatore, perché è un lavoro remunerativo. È chiaro, io non voglio fare il moralista, lungi da me, io spero che i figli poi acquisiscano strumenti di lettura della realtà autonomi. Guai imporre ai figli dei rigori oltre la tollerabilità naturale dei figli di farsi da solo le proprie esperienze. Poi devo dire che onestamente la vulgata è che se sei furbo ce la fai, se riesci a trovare il trucco per fregare gli altri ce la fai, se riesci a valorizzare quello che per te è più facile mettere su piazza ce la fai. Io quello che ho notato nei compagnetti di scuola dei miei figli ai tempi facevano elementari, che esiste ancora quel rigore, quella sorta di senso di necessità etica di farsi valere nel campo dello studio perché sarà la base su cui costruirai il tuo futuro. Noi l'abbiamo un po' dimenticata questa cosa, su questo me ne faccio per primo ammenda, sentendomi anche per la mia parte responsabile.